Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con NBA Week, la trasmissione settimanale in podcast sulla stagione NBA 2017-2018 per Radio Big World. Si prosegue rapidamente verso i playoffs, andiamo quindi ad osservare altrettanto velocemente la situazione iniziando questa settimana dalla Western Conference. Allora, come saprete, si qualificano alla parte conclusiva della stagione le prime 8 squadre per conference, pertanto è opportuno iniziare dalla coda ad ovest per capire se qualcuna di quelle che al momento appare fuori dalla griglia può sperare di rientrarci. Come al solito, registriamo di mercoledì pomeriggio e pertanto potremmo raccontarvi una realtà già modificata al momento del vostro ascolto di questa puntata. Lasciando fuori Lakers, che malgrado le buone impressioni dal rientro di Lonzo Ball sono già a sperare di prendere i pezzi grossi nel mercato estivo e magari di fare un altro colpo nel draft stile Kyle Kuzma, ci sono ben due squadre destinate a spingere per entrare, con davanti la bellezza di sei altre squadre divise da pochissimo a livello di record. Il che sostanzialmente significa che tutto potrebbe cambiare nelle prossime settimane, ma anche nelle prossime ore, a maggior ragione se si pensa agli eventuali incroci che possiamo prevedere o meno. Non sono neanche certi, ad esempio, il primo ed il secondo posto di conference, con Houston e Golden State praticamente appaiate a lottare sia per il miglior record della Lega, ma anche eventualmente per il vantaggio campo in una ipotetica finale di conference. Ma torniamo a guardare in basso. Ci sono gli Utah Jazz e ci sono i Los Angeles Clippers fuori dalla top 8, ma apparentemente lontane da arrendersi. Utah continua la sua marcia trionfale delle ultime settimane, cadendo sostanzialmente solo contro gli imbattibili Rockets e contro i Portland Trail Blazers, che al momento stanno clamorosamente occupando la terza piazza. Per il resto continuo a vedere la squadra guidata da Ricky Rubio e Donovan Mitchell come favoritissima per rientrare nel lotto delle prime 8, probabilmente a scapito di coloro che al momento occupano l'ottava posizione, quei Denver Nuggets, sorpresa comunque della stagione. Il record di Denver comunque non è così diverso né distante, ad esempio, proprio dal terzo posto, e la squadra del Colorado può essere avvantaggiata dal rientro finalmente di Paul Millsap, uno dei giocatori che doveva essere di punta per la stagione, rimasto a lungo ai box infortunato. Ma sono proprio gli infortuni in definitiva a rappresentare uno dei problemi primari per gran parte delle squadre in corsa nella Western Conference. Gallinari di nuovo out per i Clippers, che sono, come già detto, di rincorsa, ma che a questo punto appaiono comunque interessati a rientrare nell'ipotetico ultimo posto disponibile. Minnesota soffre la perdita di Jimmy Butler e scende vertiginosamente in classifica. San Antonio è altrettanto in caduta libera, sempre senza Kawhi Leonard e con un LaMarcus Aldridge a meno di mezzo servizio in fase però di rientro. Continuano invece a salire i Pelicans, malgrado il sempre da ricordare infortunio gravissimo di DeMarcus Cousins, sostituito in modo perfetto dall'avvento di Nikola Mirotic, una questione di cui avevamo ampiamente parlato nella puntata scorsa. Scendono invece anche gli Oklahoma City Thunders, che sembrano non essersi assolutamente ripresi dalla perdita del leader difensivo Andre Robertson, sostanzialmente non sostituito in modo opportuno. Il risultato di tutto questo è un sistema dove gli Spurs appaiono accreditati, almeno dal record dell'ultimo periodo, nel rischiare di restare fuori dall'otto dopo sostanzialmente una vita di partecipazioni consecutive, dove una Oklahoma City, per la quale in molti, io compreso, prevedevano una stagione importante, rischia di schiantarsi al primo turno contro una delle due corazzate che guidano la conference, e dove, a livello di valori, per i Rockets e i Warriors la strada appare sostanzialmente spianata per un rendezvous ad altissimo livello giocando la finale NBA. Tuttavia, playoff ci insegnano che tutte le serie, anche e soprattutto quelle sulla carta semplici, possono nascondere insidie pericolose, e che quando si parla di giocatori come ad esempio Damian Lillard per Portland oppure Anthony Davis per New Orleans, oltretutto nello stato di grazia attuale per entrambi, chiudere una serie agilmente contro di loro non è un gioco da ragazzi. Sostanzialmente la situazione appare notevolmente in bilico, anche se a mio avviso è destinata a risollevarsi stabilizzandosi secondo le previsioni iniziali, quantomeno con una risalita dei Timberwolves e di Oklahoma City, magari a giocarsi il terzo ed il quarto posto, magari con gli Spurs di un auspicabile Aldridge al rientro e magari con Utah a far da ingresso dell'ultimo minuto. È comunque impossibile al momento azzardare previsioni di potenziali incroci, lo abbiamo già detto, e personalmente non credo che questo faccia felice neanche Houston e Golden State, due squadre che probabilmente eviterebbero volentieri la furia ad esempio di un Russell Westbrook, che potrebbe comunque trovarsi settimo oppure ottavo e che potrebbe generare un copioso dispendio di energie per due team concentrati sulla vittoria finale. Passiamo ad Est, dove la situazione appare un attimino più di facile lettura, almeno per quanto riguarda le prime 8. Fuori dalla griglia playoff potenziale, infatti, non sembrano esserci minacce concrete, considerando l'effettivo e giustissimo tanking operato dai Knicks dopo l'infortunio gravissimo occorso a Kristaps Porzingis. Stesso discorso, a mio avviso, per i Bulls, per gli Orlando Magic e per gli Charlotte Hornets, con quest'ultimi un po' meno delle altre due, ma comunque squadre che si erano mostrate potenzialmente lottanti per il prolungamento stagionale nelle fasi iniziali della stagione, che hanno decisamente e definitivamente virato verso la soluzione di draft e mercato in vista di una prossima stagione forse di ripartenza. L'unica squadra che poteva aver velleità di rientrare nelle prime 8 era Detroit, a maggior ragione dopo l'arrivo di Blake Griffin dai Clippers, aggiunta che non è apparsa però sufficiente per risollevare la stagione in corso, visto che a livello di record ed in base alle ultime sconfitte settimanali, il loro possibile approdo come ottava appare sostanzialmente impossibile. Allora, ampiamente dentro i Miami Heat a questo punto, quelli del rientrante Dwayne Wade, ma anche qui, come ad ovest, dal terzo all'ottavo posto ci sono 6 squadre divise sostanzialmente da pochissimo. La cosa clamorosa è che tra queste c'è ovviamente Cleveland, della quale parliamo tanto tutte le puntate e che, dobbiamo ammettere, sta faticando a trovare una quadratura del cerchio nel post-mercato e continuerà a faticare con il rientro tanto atteso di Kevin Love, almeno secondo me. Un rientro che comunque serve tantissimo a LeBron James per sperare in un finale di stagione interessante, soprattutto per le doti offensive che porta con sé proprio l'ex giocatore di Minnesota. Il problema a questo punto è capire il livello di alchimia e di forma con cui Cleveland parteciperà ai playoffs stessi e soprattutto quali squadre rischia di trovarsi di fronte al primo turno, che potrebbe essere notevolmente complicato. La squadra che a mio avviso appare sulla carta la meno pericolosa è Washington, anche se dobbiamo confermare l'effetto positivo, quantomeno non distruttivo, che ha avuto l'infortunio di John Wall sulla squadra. La sorpresona appaiono i Pacers di Victor Oladipo, che sono squadra soprattutto futuribile ma che secondo me non ha esperienze né talento sufficiente per impegnare seriamente qualcuno al primo turno. Chi avrebbe il talento invece per farlo, seppur zero esperienza, sono i Philadelphia 76ers, principalmente per due ragioni. La prima è l'ottima struttura di squadra con tiro perimetrale che è stata costruita attorno alle incursioni di Simmons e alle giocate di un Embiid che sa perfettamente anche come punire da dietro l'arco. E mi riferisco in questo all'arrivo positivissimo del nostro Marco Bellinelli a fianco di JJ Redick e Robert Covington. La seconda sono appunto Simmons ed Embiid. Rispetto a questo, io direi che un giocatore come Embiid, e con il suo impatto su entrambi i lati del campo, ad est non esiste in nessun'altra squadra. Ad ovest probabilmente esisterebbe Cousins, infortunato al momento, ed esiste Anthony Davis, che però è secondo me meno centro come in natura del suo gioco potenziale. Quindi, l'avere Joelone nel mezzo è sicuramente un vantaggio rispetto a chiunque altro nella Eastern Conference che potrebbero incontrare. Sostanzialmente nella Lega esistono anche pochi giocatori come Ben Simmons, il quale però continua a dimostrare una problematicità nel tiro, ma che a livello di squadra è ampiamente coperta, come già detto, dalla struttura e dall'aggiunta anche di Marchino Bellinelli nostro. Insomma, io contro i 76ers ci giocherei malvolentieri, sia se fossi Toronto, sia se fossi Boston. Se fossi Cleveland invece perderei accuratamente qualche partita in più per evitarle al primissimo turno. Anche se l'altra mina vagante della conference, cioè i Milwaukee Bucks, che al momento sostano al settimo posto, sono altro cliente poco allegro da ritrovarsi davanti, soprattutto se sei squadra che punta alla finale di conference. In questo caso quindi il campo è sempre ristrettissimo ed è appunto ristretto a Boston, Toronto e Cavs. Allo stato di cose dell'oggi, ripeto, è mercoledì pomeriggio, i Sixers toccherebbero a James e compagni ed i Bucks a Boston. Due serie assolutamente non brutte da vedere ed un tantino rischiose da affrontare come esordio alla postseason, anche perché Cleveland ha speranze zero di raggiungere il primato di conference, mentre Boston sta lottando testa a testa con una Toronto strepitosamente continua, per la quale un vantaggio campo in un'ipotetica finale di conference potrebbe essere fondamentale. Irving e compagni hanno vinto 5 delle ultime 6 gare, provenendo però da 3 sconfitte consecutive. Appaiono secondo me la squadra più attrezzata per raggiungere la finale al momento, anche se è palese il fatto che nella struttura stessa con cui è stata concepita manchi qualcosa. E quel qualcosa è ovviamente Gordon Hayward, che con molta probabilità non rivedremo in questa stagione in nessun modo possibile. Ed è forse anche meglio così, sperando di poter tornare a gustarcelo al meglio, come se l'infortunio d'inizio anno non fosse mai avvenuto, la stagione stagione prossima. In ogni modo, l'organico a disposizione di coach Stevens è bello ampio anche a livello di soluzioni, con l'ultimo innesto, quello di Greg Monroe, che può dare veramente tanto in partite importanti con le sue capacità, soprattutto in appoggio o alternativa a colui che ad oggi è uno dei giocatori chiave della squadra, cioè Al Horford, non dimenticando la splendida stagione che stanno disputando anche Terry Rozier e Marcus Morris. Anzi, fermiamoci un attimo a pensare che Rozier è un terzo anno, mentre colui che ad oggi per statistiche è il secondo realizzatore di squadra, cioè Jalen Brown, è un secondo anno. Lo sappiamo che questa squadra è costruita secondo strutture oculate ed intelligenti, ma è buona pratica sottolinearlo anche guardando alla crescita esponenziale di questi due in questa stagione e l'importanza che sono capaci di ricoprire in termini di decisività al momento, senza dimenticare anche l'importanza che già sta ricoprendo il rookie Jason Tatum, che è altra ottima scelta di uno degli ultimi tre draft da non dimenticare assolutamente e che soprattutto rivedremo decisivo, secondo me, nella fase finale della stagione. Di Toronto abbiamo già parlato ampiamente qualche settimana fa e onestamente il miglior record della conference se lo stanno meritando tutto. Continuo a sostenere che sia un organico a cui manca un giocatore importante a livello offensivo da affiancare ad un DeRozan che sta comunque giocando una stagione da applausi, ampliando il proprio raggio di gioco e soprattutto la propria capacità di essere sostanzialmente clutch. Malgrado il record attuale, restano il terzo incomodo nell'immaginazione di tutto il mondo cestistico che, pur guardando una prestazione peggio dell'altra in casa Cavaliers, non riesce assolutamente ad immaginarsi una finale di conference ad est senza LeBron James. E probabilmente non sbagliando, perché in fondo anch'io mi aspetto un totale cambio di marcia del re all'avviarsi dei playoffs ed una magica trasformazione degli equilibri in quel del Mistake on the Lake, tanto quantomeno da superare agilmente il primo turno. Considerando che la semifinale di conference potrebbe già favorire uno scontro o con i Raptors o con i Celtics, da lì in poi la vedo un tantinello più buia per LeBron e compagni, anche se comunque chi ha in squadra il numero 23 sa di avere un carico potenzialmente decisivo anche e soprattutto singolarmente. E a mio avviso su questa consapevolezza la zia dirigenza e la squadra hanno ampiamente marciato, permettendosi una mossa che non poteva essere di facile soluzione o risoluzione, come quella di rinnovare in estate, rispedire nuovi via a metà stagione e rinnovare ulteriormente la struttura di squadra per una manciata di partite prima della fine del campionato. Se sei una squadra che punta al titolo, quantomeno alla finale, e ti permetti di agire in un modo così selvaggio, lo fai solo se sai di avere il giocatore più forte della Lega nel roster, altrimenti resti fermo e ovviamente avendo LeBron James si sono potuti permettere di tentare. Vediamo se questo tentativo sarà premiato o meno. Ed a proposito anche di questo, avremo modo poi di parlare di singoli nelle prossime puntate, dove proveremo a tirare anche le somme sugli award stagionali, partendo dal presupposto che proprio in relazione al più forte della Lega, quest'anno il premio sembra essere già destinato in Texas a quello con la barba più lunga di tutti, non fosse altro per il record clamoroso di squadra coincidente con le sue migliori statistiche di sempre. Sto parlando di James Harden e degli Houston Rockets. Ma avremo comunque modo di approfondirlo nelle prossime puntate. Per quanto riguarda quella di questa settimana, NBA Week giunge al termine. Appuntamento rinnovato quindi fra 7 giorni. Seguiteci se volete anche sulla nostra pagina Facebook che si chiama NBA Week. Comunque per ascoltarci gli appuntamenti settimanali restano i seguenti: tutti i venerdì sera sul flusso streaming di Radio Big World, tutti i sabati mattina sul canale YouTube di Belli 13, tutte le domeniche pomeriggio alle 18 in streaming su Radio Valdarno. Grazie per l'ascolto, ci risentiamo la settimana prossima.